passa veloce il tempo. Sto scrivendo, mi sono scordato di tutti quanti. Solo il ricordo del tuo volto riempie questi giorni. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Fuori piove, mi chiedo quanto veloce viaggi la mia mente. Pensa a te nello stesso tempo, voglio scordarti per sempre. E qui il problema, hanno tagliato la scena del bacio. Rimane il sapore amaro, che adesso va ingoiato. Le parole, beh, dovrei trovarle. Spiegare come mai noi non siamo più capaci di usarle. La notte bussa alla mia porta e io alle tue domande non riesco più a trovarci una risposta. In questo momento io sarò fuori con gli amici. Tu, cosa starai facendo? Mentire una lama a doppio taglio. Me ne sono accorto tardi, nel fin della tua vita io ero già scomparso. Fuori il sole, un altro giorno sulla mia pelle. Fuori il sole, un altro giorno sulle mie spalle. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Perché domani sarà sole. Fuori il sole, un altro giorno sulla mia pelle. Fuori il sole, un altro giorno sulle mie spalle. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Perché domani sarà sole. Che credone, il tempo passa, la pioggia mi bagna. Prima o poi scomparirai dalla mia testa. Niente tutto e tutto e niente. Mentirei a me stesso se dicessi che non me ne importa niente. Poi che faremo? Temo che passo da scemo. Se me ne frego, trovo il più delle spiegazioni tra i miei errori. Tra tutti questi fogli dentro il cuore saremo sempre dei signori. Dopo questo cercheremo di rincontrarsi, ma sarà soltanto tempo perso. Ti pare troppo drastica, il solito sapore resta, non lo si dimentica. Ma adesso vorrei cercare qualcos'altro. La notte ti segue e proteggi di tuo passo. Io mi sento in grado di cambiare il mondo. Tu ti chiedi come, se fino ad adesso non sono mai riuscito a cambiare me stesso. Fuori il sole, un altro giorno sulla mia pelle. Fuori il sole, un altro giorno sulle mie spalle. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Perché domani sarà sole. Fuori il sole, un altro giorno sulla mia pelle. Fuori il sole, un altro giorno sulle mie spalle. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Perché domani sarà sole. Sento che non sei più presente, sei lontana. Il tuo sapore è scomparso dalla mia camera. Il silenzio di questa stanza mi angoscia. Solo la pioggia fa visita in questa cazzo di loggia. Un giorno tutto sarà più tranquillo. Il fatto è che tutto è durato meno del previsto. Insomma, siamo stati bravi entrambi. Uno a trasformare sassi in diamanti, l'altro a gettarli in stagni. Certo che ce ne accorgiamo, viviamo in funzione di compenso. Sai benissimo come la penso. Puoi parlare con chi vuoi, con chi vuoi. Puoi raccontare i fatti tuoi. Io sarò all'oscuro di tutto. Per il futuro, per il futuro mi viene soltanto da ridere. Per il presente, per il presente mi viene soltanto da ridere. Fuori il sole, un altro giorno sulla mia pelle. Fuori il sole, un altro giorno sulle mie spalle. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Perché domani sarà sole. Fuori il sole, un altro giorno sulla mia pelle. Fuori il sole, un altro giorno sulle mie spalle. Fuori il sole, le nostre anime sempre più sole. Perché domani sarà sole. Fuori il sole, il sole, fuori il sole, fuori il sole, fuori il sole, fuori il sole, fuori il sole, fuori il sole.